Componimento trentunesimo dei Canti di Giacomo Leopardi. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Sopra il ritratto di una bella donna, scolpito nel monumento sepolcrale della medesima. Tal fosti, or qui sotterra, polve e scheletro sei. Sull'ossa e il fango, immobilmente collocato invano, muto, mirando dell'età il volo, sta, di memoria solo e di dolor custode, il simulacro della scorsa beltà. Quel dolce sguardo, che tremar fe, sì, come or sembra, immoto in altrui s'affisò, quel labbro, ond'alto par, come d'urna piena, traboccare il piacer, quel collo cinto già di desio, quell'amorosa mano che spesso, ove fu porta, sentì gelida far la man che strinse, e il seno onde la gente visibilmente di pallor si tinse, furo alcun tempo, or fango ed ossa sei. La vista vituperosa e trista, un sasso asconde. Così riduce il fato, qual sembianza fra noi parve più viva immagine del ciel. Misterio eterno dell'esser nostro. Oggi d'eccelsi immensi pensieri e sensi, inenarrabil fonte, beltà grandeggia e pare quale splendor vibrato da natura immortal su queste arene di sovrumani fati, di fortunati regni e d'aurei mondi, segno e sicura spene dare al mortale stato. Diman, per lieve forza, sozzo a vedere, abominoso, abietto, divien quel che fu dianzi, quasi angelico aspetto, e dalle menti insieme quel che da lui moveva ammirabil concetto si dilegua. Desideri infiniti e visioni altere crea nel vago pensiere per natural virtù dotto concento, onde per mar delizioso arcano erra lo spirito umano, quasi come a diporto ardito notator per l'oceano. Ma se un discorde accento fere l'orecchio, in nulla torna quel paradiso in un momento. Natura umana, or come, se frale in tutto è vile, se polve d'ombra sei, tant'alto senti. Se in parte anco gentile, come i più degni tuoi moti e pensieri son così di leggeri da sì basse cagioni e desti e spenti. Fine del componimento trentunesimo.